I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Con Deborah Rosciani. Oggi è lunedì e come sempre abbiamo l'agenda finanziaria della settimana. Quella che si è chiusa venerdì scorso è stata una settimana che ha avuto tante facce. Come sempre il focus rimane sempre lo stesso, come quando la Banca Centrale Americana alzerà i tassi di interesse. La data a quanto pare si sposta sempre più avanti, anche alla luce degli ultimi dati macroeconomici non incoraggianti. Hanno deluso le vendite al dettaglio, hanno deluso i conti del colosso dei grandi magazzini Walmart e poi anche l'ultimo rapporto della Federal Reserve, il Beige Book, ha rilevato una persistente debolezza dell'attività manifatturiera stelle strisce, per cui per la stretta monetaria è ancora presto, forse non se ne parlerà prima dell'inizio del 2016. Anche le piazze cinesi hanno naturalmente mantenuto viva l'attenzione, sono andate bene settimana scorsa anche in questo caso in attesa di nuovi stimoli monetari. Per quello che riguarda l'Europa, il tema caldo rimane sempre l'auto, ci sono ancora gli strascichi del caso Volkswagen con i grandi azionisti pronti ad un'imponente azione legale. Sono arrivate anche buone notizie per le matricole di settembre e le vendite sono andate particolarmente bene per il gruppo Fiat, che le ha viste crescere di oltre il 15% rispetto ad un anno fa. Ma la notizia più importante è che a metà settimana arriva la quotazione di Ferrari a Wall Street. Rimanendo ai casi di Piazza Affari, è stata nuovamente una settimana difficile per i titoli del lusso, che stanno risentendo in misura significativa del rallentamento cinese. Ne hanno risentito parecchio i colossi europei Barbaris e Hugo Boss, con un pesante effetto cascata sull'italiana Salvatore Ferragamo, che fra giovedì e venerdì ha perso oltre 8 punti. Per concludere, i temi su cui punteremo i riflettori in settimana: intanto si conclude il collocamento di Poste Italiane. Entro la fine della settimana sapremo se l'IPO si può chiudere anticipatamente, quante adesioni sono arrivate e quante volte è stata coperta l'offerta, condizioni essenziali per definire il prezzo delle azioni che andranno in borsa martedì 27 ottobre. Giovedì appuntamento con la Banca Centrale Europea, decisione sui tassi è attesa un nulla di fatto, conferenza stampa di Mario Draghi. Dagli Stati Uniti oggi arrivano le trimestrali di Morgan Stanley e IBM. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Con Alessandro Plateroti. Ma gli aiuti di Stato sono tutti uguali? Se guardiamo le decisioni della Commissione europea non sembrerebbe, visto che è stata aperta una nuova procedura di infrazione per un presunto aiuto di Stato, dell'Italia ovviamente, alle proprie banche. Nello specifico stiamo parlando di Banca Tercas, una delle banche che, come Banca Marche ed altre piccole banche territoriali italiane, sta vivendo un grande momento di crisi e ha bisogno di essere ricapitalizzata, se non salvata del tutto. Ebbene, l'intervento di un consorzio di banche a salvataggio di Banca Tercas ha provocato la reazione un po' inconcepibile della Commissione europea, che ha aperto una procedura di infrazione contro l'Italia chiedendo di riprendersi i soldi dalle banche che ha salvato. La decisione è un po' strana, visto che a partire dal 2008 la crisi finanziaria ha determinato una vera e propria espansione, ma senza precedenti, degli aiuti di Stato a favore delle banche. Basti pensare che tra il 1 ottobre del 2008 e il 1 ottobre del 2014 la Commissione ha autorizzato 450 volte le banche francesi, tedesche, inglesi e del resto d'Europa ad erogare aiuti di Stato a favore delle banche. L'ammontare degli aiuti autorizzato dalla Commissione a favore delle banche è stato pari a oltre 3.800 miliardi di euro, il 29,8% del PIL europeo del 2013. Insomma, viste le cifre in gioco, qualche milione a favore di Banca Tercas o di Banca Marche è davvero un aiuto di Stato? L'Unione Europea farebbe bene a riflettere bene prima di autorizzare quelle degli altri o vietare le nostre. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.